Roma Trastevere, 25 febbraio 1970. Care Eleuterio, la casa che udì i miei gridolini squillanti di bambina felice, oggi ode i miei singhiozzi repressi di adulta infelice. La nostra ultima lite ha aperto un solco profondo nella mia serenità. Mentre ti scrivo, il canarino nella gabbia di rame canta la sua gioia di vivere. E io penso che il canarino non è che un passerotto alla milanese con lo zafferano. E penso anche che sei un cretino, sottolineate Eleuterio, perché non si provoca una lite per una bottiglia di acqua di Colonia, sempre tua. Roma Parioli, 26 febbraio 1970. Cara sempre mia, mi dispiace tanto che la casa che udì i tuoi gridolini squillanti di bambina felice e oggi ascolti i tuoi singhiozzi di adulta infelice non possa ascoltare anche il mio pittoresco linguaggio di marito arrabbiato e romano. Forse hai ragione. Solo gli imbecilli sottolineati litigano per una bottiglia di acqua di Colonia. Quando la bottiglia di Colonia, esplodendo, si polverizza perché incontra nella sua traiettoria un virile setto nasale, non si litiga, si strangola. Ciao. Ho scritto. Ieri sera sono stata al circo. In nessuna gabbia ho visto tua madre. Non vorrei che stesse poco bene, Eleuterio. Roma Trastevere, 27 febbraio 1970. Care Eleuterio, gattucolo. Quando una mette davanti a ucolo qualcuno, lo fa per dichiarare che chi ha l'ucolo è robetta. Mammina ha letto la tua lettera e ha detto di te una cosa molto giusta, che non mi sento di ripetere, però l'approvo in silenzio. E penso che il silenzio non è che lo sciopero generale del rumore. Sempre tua. Roma Parioli, 28 febbraio 1970. Inspiegabile sempre mia. Senza di te sono un uomo finito. Tu sola, squisitamente vuota, deliziosamente inutile, inevitabilmente dispersiva, riesci a farmi sentire un Einstein. Senza pietra di paragone mi sento un qualsiasi mortale. Non mi va. Torna. Anche perché qui avvengono cose strane. Lo specchio del bagno non c'è più. Al suo posto c'è un pezzo di parete bianca. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha chiarito la faccenda dello specchio. Era al suo posto, sotto una parete bianca di schiuma per barba. Eleuterio. Roma Parioli, 1 marzo 1970. Care Eleuterio, micione, sono di nuovo nella nostra casa e rivedo con piacere il mio soggiorno, il mio salotto, il mio ingresso, la mia stanza da letto, il bagno rosa e il tuo studio. Mi sono ricomprata la bottiglia di Colonia che ora fa bella mostra di sé sulla mia tolettina. Io penso che una toletta non è altro che un tavolo con la crinolina. Penso anche al motivo ridicolo per cui abbiamo bisticciato. Stavamo per uscire. Io ero quasi pronta rispetto a te, che eri pronto da 2 ore. E chissà perché il fatto ti innervosiva. Sono le 10, avevamo un appuntamento alle 9 e alle 7:30 tu hai incominciato questo assurdo tentativo di restauro. Insomma, sei pronta o non sei pronta? Ma sono pronta, devo solo rifarmi il viso, pettinarmi e vestirmi, per il resto sono prontissima. Se ti devi rifare il viso, rifattalo, ma non dimenticare che anche l'occhio vuole la sua parte, il mio occhio, chiaro? E sbrigati, io sono pronto da 2 ore. Ma tu non ti devi mettere le ciglia finte, io sì. Se non mi mettessi le ciglia finte, la gente direbbe: guarda quella, senza nemmeno le ciglia finte. Se invece te le mettessi tu, la gente direbbe: guarda quello con le ciglia finte. Capito dov'è la differenza? Ho capito soltanto una differenza, quella che passa tra te e un'oca. E quale sarebbe questa differenza? Il cervello, l'oca ce l'ha. Ho l'impressione che tu voglia provocare una mia reazione, ma io non reagisco, Eleuterio, così impari. Ti vuoi rendere conto che una donna ha il dovere di aggiustarsi un po'? Va bene, ma cerca di non esagerare con l'ottimismo. Stai facendo lo spiritoso, Eleuterio? No, sto facendo il sarcastico. Sai che cosa vuol dire? Certo che lo so. Credi forse di sapere solo tu quello che invece so anch'io? Il sarcasmo è quella specie di cosa che assomiglia alla fretta. Quella specie di agitazione spasmodica. Quello è orgasmo. E io che ho detto? Sono due ore che hai fretta e sei agitato, in stato di sarcasmo, insomma. Comunque sono quasi pronta. Come ti sembro? Purtroppo non mi sembri. Sei. Eleuterio, se è un'offesa, dopo facciamo i conti. Per adesso devo pensare al vestito. Che mi metto? Lo sapevo che prima o poi avresti formulato la fatidica domanda. Che mi metto? Appunto, che mi consigli? Secondo me ti dovresti mettere un sudario e darmi per qualche istante l'illusione di vederti come da anni spero di vederti. Non ho il sudario e se lo avessi non me lo metterei perché sarebbe fuori stagione. Chi vuoi che sudi con questo freddo? Ma perché? Perché mi chiamo Eleuterio e non Enrico VIII? Sei un uomo senza aspirazioni, Eleuterio. Ti contenteresti di essere ottavo. Un uomo vero dovrebbe desiderare di essere sempre il primo. Vorrei essere il primo a compiere il delitto perfetto. Insomma, ti vuoi vestire, sì o no? Non gridare, maleducato. Mi voglio vestire, ma non so che mettermi, perché non ho niente da mettermi. Ma mettiti quello che vuoi, il vestito nero. No, quello no, da sul nero. E allora mettiti quello bianco. Me lo metterei se dessi un po' più sul nero, ma così bianco fa pensare alla neve, io ho già freddo. Potrei mettere il vestito blu che andrebbe benissimo, ma non lo posso mettere perché è in tintoria. E allora, non ho niente da mettermi. E quell'armadio, che cosa ci tieni? Ah, tutte cose che non ho, voglio dire che è come se non l'avessi. Ha ragione mammina quando dice che se tu spendessi meno soldi in tasse mi potresti comprare qualche vestito di più. Ah, questo dice lo Yeti. Mia madre non è lo Yeti. Tua madre dice di non essere lo Yeti. Ma le prove? Eleuterio, sta insinuando? Quando si tratta di tua madre non insinuo. Dichiaro. E io reagisco? Tu avresti dovuto reagire molti anni fa, quando tua madre ti ha convinta che un traliccio con baffi e gonnella va chiamato mamma. E allora tieni! Il naso! Scusami, se si tratta di una colonia femminile, così impari! E adesso torno dal traliccio, voglio dire, da mammina, ciao! Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente perché io sono una signora, anche se non ho quasi niente da mettermi per uscire. Ciao. Ciao, è quasi pronto e anche io sono quasi pronta. Ci aspettano dopo cena, c'è solo un problema, non ho niente da mettermi, come faccio?